Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Complice la crisi, lo abbiamo detto spesso, nuove abitudini di consumo e di vita all'insegna della sostenibilità ambientale e sociale stanno diventando protagoniste della nostra quotidianità. Accelerate dalla dimensione social e dalle nuove tecnologie, queste abitudini stanno tracciando il cambiamento verso nuovi modelli di consumo che indicano la via d'uscita dalla crisi e la soluzione per non ritrovarci tra poco nella stessa situazione. Il cambiamento è radicale e definitivo, indietro non si torna, dicono molti esperti, una sfida per i consumatori, le imprese e il marketing. Una sfida che oggi vi raccontiamo attraverso due ricerche molto interessanti. Sapete che cosa sono gli hoarders? Sono gli accumulatori seriali, una patologia nascosta che colpisce anche in Italia e che un nuovo programma TV a metà tra il documentario e il reality ha raccontato. Pronti a salire in bicicletta e a scoprire la città con occhi diversi? Questo l'invito che arriva dal contributo della settimana targato Bikeology. Focus sui trend dedicato invece ai nuovi bar di tendenza, quali sono i format di successo e da chi sono frequentati. It's always more fun to share with everyone. Un italiano su quattro è promotore dell'innovazione sociale, adotta cioè stili di vita e di consumo innovativi e sostenibili, basati sui processi collaborativi e di condivisione. Care, bike sharing, gruppi di acquisto solidale, prodotti a chilometro zero, prodotti sfusi o alla spina, co-working, investimenti etici, crowdsourcing oppure la compravendita dell'usato sul web. Questi promotori dell'innovazione sociale iniziano a diventare un nuovo importante target per le imprese che puntano a creare una nuova offerta facendo leva sulla disponibilità degli utenti a condividere produzione e fruizione con i loro pari e con i brand. Una ricerca presentata in occasione del Salone della Responsabilità Sociale d'Impresa ci dice che questi fenomeni non sono una moda passeggera, sono il futuro, dichiara chi li ha provati, come ci racconta Carlo Erminero, presidente dell'istituto di ricerca CE&CO. Gli economisti sono sempre stati un po' diffidenti nei confronti di queste forme di volontariato nei consumi o di condivisione delle esperienze, pensando sempre che si trattasse di anomalie del sistema o di imperfezioni che sarebbero state superate da una modernizzazione dell'economia e della società. Non è così invece, cioè al contrario, stanno proprio nascendo adesso da un po' di anni queste nuove forme, non sono nemmeno figlie della crisi, nel senso che è chiaro che ci sono anche in parte motivazioni di risparmio in cui ad esempio l'acquisto dell'usato, no? Lo scambio quindi dell'usato, il baratto anche, sono forme che portano a dei vantaggi economici importanti, si risparmia, ma la scoperta più interessante è che la crisi prima o poi passerà, speriamo, ma queste nuove forme di consumo e di condivisione dei consumi e di organizzazione sociale di consumi diversi non passerà. Questo è un trend di lungo periodo su cui possiamo far conto e su cui anche le aziende possono far conto. L'innovazione sociale, cioè modificazione dei comportamenti di consumo, possono essere una fonte di business molto interessante per le imprese che le sanno cogliere. C'è una cosa in comune che hanno tutte queste esperienze, ne abbiamo testate una dozzina circa nello studio, che quelli che le hanno sperimentate, tanti o pochi a seconda delle proposte che abbiamo considerato, quelli che le hanno sperimentate sono contentissimi. Ne sono anche portavoce, ne sono promotori, quindi queste nuove forme possono contare su un passaparola che sarà la prima forma di promozione del sistema. Ecco perché siamo convinti che siamo davanti a un punto di svolta ed ecco perché siamo convinti che le imprese attente possono trarre un vantaggio, perché l'innovazione all'interno dell'impresa oggi, nelle nuove proposte di consumo, passerà non tanto nell'inventare nuovi prodotti come il marketing era sempre abituato a fare, per cui lo yogurt senza colesterolo o i biscotti alla menta. Sarà piuttosto nel coinvolgere i consumatori e renderli protagonisti di nuove forme di consumo. Non è una moda passeggera e può diventare, per le imprese che la sanno cogliere, un'importante fonte di business. Mi piace. Posta, commento. Scrivi un messaggio. Condividi filmato. Tagga una foto. A cosa stai pensando? Commenti. Segnala evento. Resta collegato. Rispondi al messaggio. Inizia a chattare. Suggerisci amici. Il protagonista di questi processi collaborativi, molti dei quali rappresentano quella che viene definita la sharing economy, è il consumatore multicanale, abituato a surfare, per così dire, dentro e fuori la rete per informarsi sui prodotti, compararne i prezzi e acquistarli. Un consumatore che in molti casi è un passo avanti alle aziende, come ci racconta la seconda ricerca che abbiamo scelto per la riflessione di oggi. Si tratta di una ricerca presentata all'ottava edizione del Consumer and Retail Summit del Sole 24 Ore da EY. Paolo Lobetti Bodoni. Stanno evolvendo le abitudini d'acquisto in maniera significativa, muovendosi su comportamenti che vanno in tutte le canalità, in tutti i canali, da un lato canali comunicativi, dall'altro canali di acquisto vero e proprio. Si parla molto di e-commerce, si parla di social commerce, si parla di incremento dei consumi anche attraverso, con acquisti anche attraverso il mobile, quindi il telefono che diventa strumento di comparazione prezzo e poi di acquisto. E questo è un fatto, e il fatto in Italia pesa un 60%, cioè 60% dei comportamenti dei nostri consumatori cross category sono con comportamenti misti, comportamenti che o iniziano sull'online e finiscono nei negozi o cominciano sui negozi e finiscono sull'online, fenomeno altrettanto importante. Questa evoluzione ha portato anche a un cambiamento nei criteri delle decisioni d'acquisto oppure no? Cambiano i criteri delle decisioni d'acquisto, sì, aumenta la velocità di comparazione del prezzo, che è un dato comunque che resta in cima a ogni classifica di anche cross categoria, ma diventa sempre il criterio principe, soprattutto visto che il paese è ancora in una condizione difficile, e quindi il primo aspetto che la multicanalità mette in evidenza e in trasparenza è il prezzo, ma non è l'unico, nel senso che poi ci sono anche elementi di influenza da quelli che sono gli aspetti social. Stiamo diventando sempre più degli animali sociali anche durante il momento d'acquisto. Cominciamo ad avere dei negozi dove è possibile condividere la propria esperienza d'acquisto con i propri amici e prima di arrivare alla cassa vedere se il vestito o se il prodotto è, come dire, corroborato anche dall'accordo con gli amici e con quindi un'esperienza sociale nel momento di acquisto. Consumers on board è il titolo della vostra ricerca. In questo viaggio il consumatore è un copilota. È un copilota che comincia a lavorare con il pilota molto tempo prima, nel senso che addirittura nello sviluppo prodotto ormai le giovani categorie, soprattutto parlo di giovani perché sono soprattutto i giovani a partecipare di più allo sviluppo prodotto e essere più propensi a lavorare allo sviluppo prodotto direttamente nella fase di concezione del prodotto. Cioè ci sono prodotti che ormai vengono pensati dalle case, dai brand, sulla base di spunti che arrivano dai blogger, che arrivano da chi effettivamente è in contratto col brand. Questa è l'entrata della mia casa. Una volta era una casa, adesso non si capisce più che cos'è. È diventato un magazzino. Ho paura del vuoto. La questione è che il vuoto è assenza. L'argomento principale è tutelare la tua salute, tutelare la salute di chi ci sta intorno. Che io sappia, qui dentro non c'è niente da buttare. Questo era Vite sommerse, il docu-reality sulle vittime italiane dell'accumulo compulsivo, andato in onda ieri sera su Real Time in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Storie di accumulatori seriali che vivono in case dove gli oggetti hanno ormai preso il sopravvento. Storie molto vicine anche alla realtà italiana. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Discovery Italia e ASL di Milano, dove alcuni operatori stanno stanno cercando di creare una rete di sostegno per chi soffre di questo disturbo, spesso abbandonato a se stesso perché in Italia non esiste un protocollo ufficiale di cura. Il nostro vuole essere un programma di rilevanza sociale, ci ha detto Laura Carafoli, che è la responsabile contenuti di Discovery Italia. L'ispirazione è stata sicuramente un'attenzione che c'è stata su Real Time nel corso degli ultimi anni sul tema dell'accumulo compulsivo. Noi avevamo in onda diversi programmi americani che raccontavano queste storie. Abbiamo visto quindi che il pubblico ha risposto benissimo, nel senso che c'era molto interesse, un sacco di domande. E abbiamo capito poi, incontrando alcuni responsabili dell'ASL, che questo fenomeno non era un fenomeno lontano, in qualche modo esotico, comunque dal quale ci divideva un oceano, ma era un fenomeno molto vicino. E ci hanno raccontato i responsabili dell'ASL che solo a Milano dal 2010 c'erano ben 350 casi riconosciuti di persone che anche vivevano vicino a noi. E questa cosa ci ha assolutamente motivato per raccontare delle storie appunto italiane, per fare qualche cosa per queste persone. Infatti abbiamo anche fornito un numero di telefono e una mail per fare delle segnalazioni, perché molto spesso questo fenomeno è sommerso quanto le stesse persone vivono sommerse nelle case. Questo ci sembra un modo di raccontare delle storie innovativo e sicuramente utile, ed è una cosa che faremo anche su altre tematiche nel 2015. Bikeology. Siamo al consueto appuntamento che ci aiuta a vedere il mondo dalle due ruote. Nicolò De Devitis, ben ritrovato Nicolò. Ciao, buongiorno. Bike blogger, _ divano letto il suo account su Instagram. Nicolò, qualche settimana fa lo avevamo anticipato, come stanno procedendo le tue bike walk? L'ultima a Roma, è così? Sì, è stato bellissimo, c'erano più di 400 persone. È stata un'emozione assurda quando ho dato il via in mattinata a mezzogiorno, quando siamo partiti, e abbiamo invaso Roma di biciclette con tutte queste 400 persone che suonavano, cantavano. Poi avevo pensato a renderla un po' più colorata con della musica, quindi avevo portato un po' di gente con delle casse portatili, quindi c'era questo cordone di musica allegra, gente che cantavano. È stato bellissimo, una giornata pazzesca. E il sole ci ha aiutato, è stato bellissimo. Chi viene, Nicolò, a questi appuntamenti? Grandi, bambini, tutti. Io ho lanciato un invito dicendo: invitate il vicino di casa, amante, amici, chiunque. E infatti così è stato, c'erano veramente, il target era amplissimo, era quello che poi io volevo. C'era un signore con la maglietta con scritto nonno in bici, questo signore di 70 anni con il caschetto. Poi si era portato una piumetta tipo alpino legata sul suo casco e con la maglietta con scritto nonno in bici, e lui l'ho messo davanti con me e abbiamo fatto il raduno insieme in testa. Com'è una città come Roma, Nicolò, vista dalle due ruote? Perché poi lo scopo di queste tue iniziative, sì, è anche quello di invitare tutti a vivere la città in modo diverso. Sì, farla riscoprire. Certo, Roma non la riscopriamo certo noi in bicicletta, però sappiamo che sulle due ruote, diciamo, la vista è completamente diversa. In macchina, quando sei stressato, fermo in macchina, non riesci a guardare quel dettaglio che magari poi in bicicletta scopri e ti emoziona, per far rendere conto che comunque la bicicletta sta prendendo piede in Italia. In Europa, vabbè, ormai ha già preso, però noi arriviamo sempre un po' dopo e piano piano ci arriveremo anche noi. Grazie Nicolò, alla prossima. Grazie a voi, come sempre, ciao. Al bar vince il caffè oppure l'happy hour? Ve lo svegliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. Tu, scusa mica, ha detto che lui non rispetta uno vestito da barista, ma si riferiva a te. Si riferiva a mica. I baristi italiani sono... I baristi italiani sono più eleganti che tutti inglesi. Allora chi se ne frega, io sono a terra. Focus sui trend. Lo sapete che anche per i giovani il bar è un rito quotidiano e che il caffè ha la meglio sull'happy hour? Lo rivela una ricerca presentata in occasione della 15ª edizione della guida ai bar d'Italia del Gambero Rosso, una ricerca che indaga le abitudini di consumo delle nuove generazioni e ci restituisce uno spaccato interessante sulla cultura giovanile. Uno spaccato che racconta le esperienze, i casi più innovativi di un settore, quello dei bar appunto, e della sua fruizione. Ne parliamo con i ricercatori di Future Concept Lab. Linda Gobbi, ben ritrovata. Ben ritrovata. serata, Maria Luisa, ben ritrovati a tutti voi. Da dove siete partiti, Linda? Con quale obiettivo? L'obiettivo che si è proposto l'osservatorio Il Caffè, patrocinato questa ricerca proprio in occasione dell'assegnazione dei premi Il Miglior Bar d'Italia e la Guida dei Bar d'Italia di Gambero Rosso, con una domanda specifica. Abbiamo visto negli ultimi anni un fiorire in tutto il mondo di una imprenditoria giovanile che porta linfa vitale nel mondo delle esperienze e della definizione dei locali pubblici. Abbiamo allora voluto vedere, misurare, come anche in Italia vi sia il contributo di giovani consumatori nel sostenere queste esperienze di innovazione. Da una parte la guida dei bar d'Italia del Gambero Rosso ha selezionato bar in qualche modo eccellenti, noi abbiamo voluto vedere se il pubblico giovanile, e quindi la ricerca si è focalizzata su un pubblico 18-35 anni, in qualche modo come rispondesse a queste nuove sollecitazioni del mondo dell'offerta. Ecco, voi avete isolato tre concept per i bar di eccellenza, quali sono? Sono dei concept che in qualche modo raggruppano le esperienze più interessanti, sia internazionali, ma poi vedremo anche la specificità italiana. Tre mondi così definiti: il primo, Open Air Connection, quei locali pubblici o bar che sono strettamente connessi allo spazio urbano, uno snodo, se vogliamo, di reti e di relazioni fisiche ma anche virtuali, in cui l'outdoor, il contesto, ha un privilegio. Gli esempi internazionali ci vengono prioritariamente da San Francisco, Vancouver, dal nord del mondo. Secondo concept, l'unexpected combination, cioè quei nuovi locali di aggregazione soprattutto giovanili, luoghi ibridi, in qualche modo evoluti, che incrociano esperienze. Londra in questo caso è la patria delle unexpected combination, si uniscono esperienze di prodotti vintage, di abbigliamento, di arredo eccetera, all'esperienza del caffè e del cibo. Terzo concept, se vogliamo, o guida di nuove tendenze, è quello della original origin, laddove un locale pubblico, un bar, punta su un'offerta da una parte originale, ma comunque sempre autentica, legata alle origini, alla tradizione di una cultura, e qui si esprime al meglio il tema della sostenibilità. Che cosa rende unico il rito del caffè in Italia? Unico nel suo valore sociale e nella sua intergenerazionalità, anche abbiamo visto dalla vostra ricerca. La ricerca è davvero interessante. Cosa abbiamo visto? La tenuta del bar italiano, con una grande alleanza tra chi? Tra il protagonista, il barista, cosa che le grandi catene, esperienze internazionali ci dicono non sia così significativo. Noi abbiamo nel barista, nei baristi italiani, un grande punto di forza. Qual è il modello vincente del bar italiano? La conciliazione tra la simpatia, la cordialità, la gentilezza e oggi la professionalità con la qualità. Cordialità e qualità, ci dicono i nostri giovani intervistati. Al primo posto delle ragioni per cui il 96% dei giovani italiani frequenta un bar, l'80% ha un bar preferito. È il momento principe del consumo di qualche cosa al bar è la colazione, e quindi caffè espresso, caffè macchiato e cappuccino sono i testimonial di questa eccellenza. I bar che hanno vinto, come giovani che hanno risposto alla nostra indagine, sono tutti giovani imprenditori, a volte anche di prima generazione. Le famiglie facevano altro, sono quasi tutti tra i 20 e i 30 anni, aprono queste esperienze imprenditoriali, a volte con viaggi all'estero, formazione all'estero, tornano in Italia e aprono questi luoghi di un consumo eccellente, circolo virtuoso, cordialità, materie prime fantastiche anche da raccontare. L'origine del caffè è argomento di conversazione, oltre che di esperienza qualitativa eccellente. Si vede nella cremina in tazza, ci dicono i giovani intervistati, e grande cura in qualche modo dell'ambiente stesso. Il consumautore. Ci ha raggiunto in studio, come sempre, per la riflessione finale Francesco Morace. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Maria Luisa, e agli ascoltatori. Qual è il tema di oggi, Francesco? Oggi parliamo di responsabilità sociale delle aziende. È un tema che per molti anni ha coinvolto una parte molto limitata delle aziende e del mondo manageriale. Oggi invece il tema esplode perché la responsabilità è sempre più legata anche a questa idea di innovazione sociale, quindi le aziende che devono in qualche modo rispondere a nuove esigenze dei nostri consumautori, che sono molto attenti al tema. In che misura la consapevolezza ambientale, sociale, di questo stiamo parlando, che è partita dal basso, per così dire, dal consumatore, dal consumautore, come appunto abbiamo intitolato questa rubrica, dai cittadini, ora appunto è arrivata alle aziende. In che misura, dicevo, sta cambiando, cambierà anche i meccanismi interni alle aziende? Penso all'organizzazione del lavoro, alla condivisione del sapere. Cambierà profondamente, sta già cambiando. Oggi l'elemento di consapevolezza non solo dei consumatori ma anche dei cittadini è veramente al centro delle nostre preoccupazioni, e quindi le famiglie sono molto più interessate ad esempio a prodotti che dimostrano di avere questa sensibilità che non è solo ambientale ma anche una responsabilità che parte dal saper fare, quindi quali processi, chi è che lavora nelle aziende, con quali caratteristiche. Le aziende sono sempre più interessate a trasferire ai loro clienti la forza della loro responsabilità. Quindi è una trasformazione, una comunicazione che passa, arriva anche nel prodotto, nel rapporto diretto con il consumatore. Sì, qui una accortezza anche proprio dal punto di vista della comunicazione. Per troppi anni, soprattutto in Italia, alcune aziende hanno pensato di poter delegare solo alla comunicazione il tema della responsabilità sociale. Questo oggi non basta, pensiamo al famoso greenwashing delle aziende che volevano proporsi come sostenibili e poi si scopre che i processi non lo sono. Quindi oggi il consumatore ha la possibilità di controllare e le aziende devono rispettare questa consapevolezza. Grazie a Francesco Morace, grazie a Pietro Lacorte in regia. Essere Avere torna sabato prossimo come sempre alle 16:30. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.